Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non era stata una gran giornata arbitrale quella giocata tra sabato e domenica, non lo è stata nemmeno per Brighi nel posticipo di Napoli, finito 1-1 con il pareggio sorprendente alla vigilia, no? del Bologna sul Napoli. Poi, per quello che si è visto in campo, un pareggio che persino potrebbe andare un po' stretto. Il commento di Pioli. No, io credo assolutamente che il regolamento parla chiaro, e anche nell'ultima riunione che abbiamo avuto con i rappresentanti, con la classe arbitrale, il fallo di mano a rigore per essere considerato rigore deve essere un fallo di mano intenzionale. Io non credo assolutamente che Perez, una palla che andava fuori dal campo, abbia voluto prendere la palla intenzionalmente, quindi secondo me non è stato applicato bene il regolamento. È un peccato, perché è vero che Napoli stava spingendo, ma è altrettanto vero che non stava creando grandissimi problemi. Beh, è difficile dar torto a Pioli, a meno di non chiamarsi Mazzarri. È anche vero che quando una squadra sta bloccata dietro cerca prima di tutto di distruggere con tanti falli tattici. Non è facile, ci vuole il guizzo, ci vuole la giocata, il campo in questo momento non ci aiuta, che noi giochiamo sui tempi, i giocatori che giocano solo palla a terra come Mare, come Pandev, sono penalizzatissimi, perché basta una zampata, abbiamo creati tanti presupposti per far gol, per un motivo o per un altro non ci siamo riusciti. Questo è il calcio, si vive anche su episodi, la partita si è messa in salita, e tutti vengono qua, hanno due risultati su tre, noi abbiamo solo il dovere di vincere, si rischia anche, come ho fatto, per vincere qualche partita si può anche perdere. Una curiosità, e mi rivolgo a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Ma ci sono tanti altri allenatori in giro per l'Europa e per il mondo altrettanto lamentosi come Mazzarri? Guarda, certamente ci saranno. Diciamo che i più famosi che noi sentiamo hanno un atteggiamento complessivamente diverso. Poi le conferenze stampa vanno ascoltate tutte. Effettivamente qui pare che i frammenti che avete preso appartengano a due partite diverse, e soprattutto poi l'interpretazione che dà Pioli e l'interpretazione che dà Mazzarri sono veramente a polo nord e polo sud, sì, rispetto alla medesima azione. Io devo dire che ieri sera l'ho chiesto a Perez direttamente, gli ho detto ma l'hai colpita di mano intenzionalmente o no, perché lui a un certo punto ha detto vediamo le immagini. Ho detto ma come vediamo, per capire se è intenzionale o no. Ho detto scusami, ma l'hai fatto tu, lo saprai se è intenzionale o no. Io credo non fosse intenzionale, nel senso che la dinamica è troppo veloce. Rifletto però su questa cosa, che se l'unico parametro, però questo è un discorso più generale, se l'unico parametro deve essere l'intenzionalità, allora francamente mi torna difficile, perché uno che intenzionalmente colpisce la palla in area o è un pazzo o è uno che vuol togliere il pallone che sta per entrare in rete, perché altrimenti uno in area dovrebbe proprio legarsele dietro la schiena, le mani. Detto questo, se l'indicazione che ha riferito Pioli è corretta, e onestamente credo che lo sia e che lo fosse, l'arbitro ha fischiato in una maniera diversa. Se invece l'interpretazione, soprattutto il suggerimento del guardaline Padovan, è stato quello di incare in Perez come reo di un atteggiamento volontario, allora in questo caso è rigore. Però è clamoroso che due uomini di calcio e anche due ex calciatori come Pioli e Mazzarri la vedano onestamente così diversa, in maniera così diametralmente opposta. Senti, sì. Fabio, io avrei una proposta: il silenzio stampa sul classico, perché secondo me non se ne può più. Cioè, domani sera di questi ricominciano, cos'è? Coppa del Re, mi pare, no? Coppa del Re. Quarti di finale, tra l'altro. Quarti di nobiltà, peraltro. Sì, certo. Beh, intanto io direi complimenti, ma veri però, non ironici, a chi ha fatto il tabellone, perché almeno una delle due va fuori e se non altro qualcun altro può giocarsi la finale, no? Devo dirti, Gigi, che in questo assomigliano abbastanza agli inglesi, perché anche gli inglesi sono addirittura integralisti al 100%, quindi capita che ci siano molto spesso delle squadre underdog, squadre molto sfavorite che arrivano in finale proprio perché non incontrano quasi nessuno, mentre le altre si scannano, basta vedere il Manchester City, il Manchester United, tipo di calendario hanno nelle loro coppe. Comunque io direi, vediamo come va l'andata domani sera a Bernabeu, poi semmai la settimana prossima ci arriviamo. Sì, guarda, io farei un voto, cioè di non averla anche in Champions League, questa doppia sfida, perché mi piacerebbe vederla in finale. Sì, d'accordo. Senti, invece la domanda di oggi, la domanda di partenza, lo so che sembra banalissima e magari lo è, però è la seguente: ma chi è Tevez e perché tutti, almeno a parole, vogliono questo giocatore? Secondo me dobbiamo fare un'analisi abbastanza ampia e che parte da una considerazione tecnica e una umana. Premesso che le considerazioni tecniche sono più facili perché parliamo di uno che si vede e quindi da un punto di vista tecnico Tevez è certamente un eccellente giocatore, palla a terra, ventre basso, molto veloce, calcia benissimo i calci di rigore, benissimo i calci di punizione, crossa molto bene, è l'ideale partner d'attacco per molti attaccanti. È uno che ha un ottimo feeling con il gol, segna spesso, proprio perché cerca la porta, ha molta fame di gol. Quindi da questo punto di vista lui è un top player, certamente lo è, e comunque la sua carriera parla chiaro. Lui compirà 28 anni il 5 di febbraio, lui ha vinto un pallone d'oro sudamericano, ha vinto una Champions League, ha vinto un mondiale per club, ha vinto molto anche da un punto di vista individuale. La questione umana è una questione più complicata, perché intanto è un personaggio veramente difficile, è un personaggio difficile da conoscere intimamente, difende molto da questo punto di vista la propria privacy, non so se perché non abbia molto da dire o perché in realtà preferisca essere giudicato solo per quello che fa in campo. Detto questo, parliamo di un ragazzo che è nato in un quartiere molto complicato di Buenos Aires, chiamato Fort Apache, e da lì è diventato il suo soprannome Apache. Sì. È uno che ha cambiato squadra, e per cambiare squadra la prima volta per andare a giocare al Boca ha dovuto taroccare il cognome e prendere il cognome della madre. È uno che ogni volta che firma un contratto bisogna andarlo a leggere non con la lente di ingrandimento ma con due lenti di ingrandimento, perché vengono inserite delle clausole che tante volte vanno a complicare, diventano lavoro da avvocati, commercialisti e notai, perché lui arrivò al West Ham con il cartellino di proprietà da parte di una società, Media Sport and Investment, a un manager iraniano con due cognomi e con due date di nascita al registro delle imprese londinesi. Questo Kia Yorabchan è un personaggio sicuramente singolare, ecco, mettiamola così. È uno che fa abbastanza fatica ad affezionarsi alle squadre nelle quali gioca, perché è arrivato all'West Ham, l'West Ham e lui e Mascherano hanno rischiato di retrocedere, anche se va detto che Tevez poi nelle ultime giornate ha dato un contributo decisivo alla salvezza della squadra, che aveva cambiato allenatore e con Karbisch lì si è salvata. Poi è andato allo United, bene il primo anno, meno bene il secondo, quasi mai però sensazione che Ferguson lo considerasse un titolare, l'ha considerato spesso un'ottima alternativa, forse perché da un punto di vista del passo può anche assomigliare a Wayne Rooney, anche se è un giocatore molto, molto diverso. Poi la lite con lo United, l'approdo al City, i cartelloni pubblicitari di sfottò ai tifosi dello United, il tipo di atteggiamento mai conciliante, è chiaro che si tratta di un personaggio difficile, è chiaro che si tratta di uno che non entra in maniera neutra nel gruppo, basta capire, basta vedere poi com'è stato il rapporto con Roberto Mancini, inizialmente ottimo e poi deteriore, si è rifiutato di fatto di entrare in campo a Monaco di Baviera, lui non gioca dalla fine di settembre da una partita di Coppa, di FA Cup, quindi tutto questo periodo l'ha trascorso tra Brasile e Argentina, giocando a golf, partecipando a cerimonie di inaugurazione e quant'altro, quindi nessuno sa in questo momento in che condizioni fisiche sia, quanto tempo abbia bisogno. Quindi è un grandissimo punto interrogativo, ma grande, e credo che le parole di Ranieri siano state chiarissime da questo punto di vista ieri. Molto, ma molto significative. Bene, grazie a Fabio Tavelli, è arrivata questa scheda completa di come Tevez, posso aggiungere qualche numero, cioè che nel City il primo anno ha giocato 35 partite con 23 gol, il secondo ha giocato 31 partite con 20 gol, quindi a differenza che nello United nel City ha reso molto di più. Poi questa rottura, una voce contraddittoria è quella per cui viene chiamato Bad Boy Fabio, nel senso che non è mai stato espulso in Premier League, ha giocato quasi 160 partite, però è stato espulso due volte in nazionale con la Colombia e il Paraguay nelle qualificazioni mondiali, ma il caratteraccio non attiene tanto ai comportamenti in campo quanto a quelli fuori, e ce l'hai spiegato bene, sia per le caratteristiche sue che per il manager. Allora, questa dal mio punto di vista folle corsa a Tevez ad ogni costo, introduce qualche altro nome e comunque qualche altro aspetto di questo fenomeno. Esempio, la settimana scorsa arriva in Italia Vargas, si presenta a Napoli, fanfare, tamburi, a leggere i giornali che di questo campano però in questo periodo, i giornali sportivi intendo, e quindi sì, è chiaro che il, come dire, il senso critico si abbassa un tantino a leggere i giornali, cioè, arriva Vargas, ecco il fenomeno. Dopo un tempo Mazzari l'ho dovuto levare dalla disperazione facendo anche ammenda e dicendo non ho calcolato che questo ragazzo aveva bisogno di ambientamento, eccetera. Allora, quando si sente parlare, non so, di 20 milioni di euro per Lucas adesso, che non so bene chi sia, che tu ci dirai, o che... ma insieme a queste cifre spaventose che questi giocatori costano, non è ora di tornare a quelle antiche buone istruzioni per l'uso? Guarda, il mercato in questo momento si sta concentrando tantissimo su Argentina e Brasile. Effettivamente ci sono tanti giocatori che, dalle immagini che vediamo, poi i procuratori, ma soprattutto i direttori sportivi, viaggiano molto e vanno molto spesso a vederli dal vivo, ovviamente, però il transito maggiore è il DVD, è la cassetta, la vecchia cassetta, è YouTube e tutto il resto. La mia sensazione è questa, è che quando si fanno delle scommesse, la scommessa di per sé significa puntare poco per vincere tanto, non è puntare tanto per prendere alla pari. Cioè, se tu investi 20 milioni per Lucas non è una scommessa, perché se la perdi sei un pazzo. La scommessa è investire un milione su nessuno e che poi magari questo te ne valga 20 tra tre anni. Quindi forse dovremmo anche riparametrare noi che ci cibiamo un po' di mercato, per fortuna ancora per qualche giorno e poi da febbraio meno. E, la mia netta sensazione è che se parliamo di questi giocatori giovani, perché gli stessi fenomeni o presunti tali, poi alla fine le squadre li hanno trattati ma poi non li hanno presi, perché poi Neymar è rimasto lì, perché poi altri giocatori trattati non verranno, almeno non subito. Ho il sospetto che ci sia da parte di molti la voglia di prenderli, ma magari di prenderli parcheggiandoli un anno in un'altra squadra, sì, per fargli fare un po' di apprendistato in Europa. Tra un giocatore che non ha mai giocato in Europa e un giocatore che in Europa ha già giocato uno o due campionati, io sarei sempre per prendere il secondo che ho detto, proprio perché l'impatto, l'approccio, non dimentichiamoci mai che loro stanno in un emisfero diverso, quindi in questo momento è estate da loro, loro arrivano qui a gennaio al freddo, uno dirà beh era a Napoli, no, a Napoli ieri sera era già freddo come a Milano, sì, e catapultati in un campionato che non conoscono, con una situazione tattica completamente diversa, perché se andate a leggere un'intervista che ha rilasciato oggi Ancelotti alla Gazzetta, lui ha detto tutto sommato in Premier League per me era abbastanza facile, perché in Italia ogni allenatore mi crea una trappola, in Premier tutto sommato è sempre uguale, certo. E se lui lo dice della Premier, figurarsi dei campionati argentino-brasiliano, dove non credo che a parte due o tre casi ci siano delle grandi scienze tattiche. Ecco che metti insieme tutto questo, oltre al fatto della lingua, dell'ambientamento, del fatto che uno come Vargas si trova comunque davanti tre grandi giocatori come Amsic, Cavani e Lavezzi, più adesso sta giocando bene, quindi sa che non ha immediatamente la possibilità di giocare subito, viene portato in campo, fatto giocare al primo minuto in una partita che non gira subito bene, il rischio della figuraccia è altissimo, e quindi il consiglio è aspettare, non crocifiggerli e dargli tempo. Possibilmente io farei così, li prendi, li dai a una squadra tedesca o a una squadra francese o a una media squadra spagnola, li fai giocare una stagione, vedi come sono e poi se sono buoni te li tieni. E poi fai sto ragionamento. Fabio, prima di chiudere il nostro appuntamento di oggi, una curiosità che ho e riguarda il Tottenham. Al di là del pareggio inatteso di quest'ultimo turno, proprio sul più bello, quindi di questo passo falso, visto che qualche criticità comunque le due squadre di Manchester ce l'hanno, soprattutto lo United, può essere davvero il terzo incomodo il Tottenham di Redknapp oppure destinato a evaporare? Ma io credo che possa, beh, intanto già una risposta ce l'abbiamo nel weekend, perché c'è la sfida contro il Manchester City, mentre lo United gioca con l'Arsenal, quindi domenica c'è una bella doppia, una bella rimescolata, può esserci. Sì, anche se l'Arsenal poi ha perso contro lo Swansea, quindi non riesce proprio mai a dare continuità alla squadra di Wenger. La mia sensazione è che ci fosse la Champions, il Tottenham sarebbe più competitivo, nel senso che le squadre di Manchester in Champions avrebbero comunque dovuto perdere un po' di attenzione e di concentrazione da marzo, diciamo fine febbraio, marzo in poi. Così io credo che siamo abbondanti, diciamo 40-40-20, 40 per una di Manchester, 40 per l'altra, 20 per il, diciamo, Tottenham e Chelsea, il 20%. Però se il Tottenham fa risultato contro il City domenica, queste percentuali crescono, perché la squadra di Redknapp è veramente una eccellente squadra ed è fatta e finita per il campionato inglese, quindi se regge ancora un mese e mezzo in scia, poi può succedere di tutto. Guarda, io ti lascerei con una brevissima lettura di questo, di una notizia pubblicata stamane dalla Gazzetta dello Sport nel suo inserto internazionale Extra Time. Dice: anche i dettagli possono far vincere, ne sai qualcosa il Manchester City, dove lo staff medico, d'accordo con Roberto Mancini, ha stilato alcune regole per i calciatori, dalle calze a compressione graduata da indossare di sera per migliorare la circolazione del sangue, ai bagni gelati prima di dormire per tenere i muscoli per lenire i muscoli affaticati, alla dieta bilanciata ma molto speziata viste le proprietà antinfiammatorie del peperoncino e di cibi simili. Come lo vediamo Balotelli col bagno prenotturno e le calze? Sì, secondo me alla fine poi lui ci si diverte. Sì. Credo che la rivoluzione di Mancini sia completa da questo punto di vista. Lui ha avuto grandi difficoltà, lui è entrato in maniera pesante sugli stili di vita, sulle abitudini e in generale il calcio inglese è molto cambiato anche per questo, la metodologia di allenamento è molto diversa, i giocatori hanno meno stravizi, Mancini arrivò anche a un certo punto, credo anche diventando un po' impopolare all'interno dello spogliatoio, a suggerire il tipo di vizi eventualmente ai quali abbandonarsi, e certamente di non abbandonarsi a quello del bere, perché lo sappiamo, insomma, gli inglesi quando bevono tanto. Non è un caso che poi tante volte grandi squadre del campionato inglese non fossero composte da moltissimi giocatori inglesi, e l'approdo di tecnici dal vecchio continente, cioè diciamo dalla scuola francese come Arsène Wenger, e non è un caso che la nazionale sia stata affidata prima a Eriksson, poi con l'interregno tragico di McLaren è tornata a un non inglese come Fabio Capello. Ecco, la metodologia complessiva degli allenatori dei manager non inglesi in questo ha inciso moltissimo. Ora io mi auguro che non si arrivi anche agli eccessi opposti, perché altrimenti non ci capiamo più. Però credo che Mancini in questo sia veramente molto molto all'avanguardia e molto molto attento a qualsiasi particolare, per quello che teme, secondo me. Certo, possibilissimo. Grazie Fabio. Grazie a te Gigi, un saluto a tutti. Chiudiamo questo collegamento. Per i vostri interventi aspettiamo di avere doppiato il capo di Buona Speranza degli aggiornamenti dai mercati tra poco più di un minuto. Io nel frattempo sentirei il commento, la gioia anche di Immobile, di questo giocatore del Pescara, che è nettamente il capocannoniere della Serie B e che ieri sera ha trascinato, e non è la prima volta, il Pescara a battere il Verona, che era in una serie utile addirittura impressionante. Sì, sì, il mister ci aveva detto quando ha fatto la riunione, ha detto questa è una partita importante, magari lo dice in tutto, però nei suoi occhi si vedeva che lo diceva in modo diverso, forse è rimasto anche lui un po' così quando ha visto tutta quella gente al Poggio e ci voleva trasmettere tutta la carica che c'aveva dentro. Beh, quello che vuole il mister, cerco di dare sempre il meglio, poi ovviamente quando sto bene fisicamente do il meglio, do tutto me stesso, quindi sono contento per i due gol e sono la ciliegina sulla torta di una grande prestazione collettiva. Ciro Immobile è un attaccante che potrebbe davvero avere un signor futuro. Ci sono anche le squalifiche in Serie A, la più curiosa certamente è quella del preparatore atletico del Milan, Toniaccini, per insulti a un giocatore della squadra avversaria, che sarebbe poi stata evidentemente l'Inter, visto che trattavasi di derby. Stavo guardando l'elenco degli squalificati dal giudice sportivo, stavolta si va a coppie, perché ci sono Lucchini e Carmona dell'Atalanta, Boateng e Nesta del Milan, Cherubini e Morleo del Bologna, Della Fiori e Paci del Novara, Gazzi e Rossettini del Siena, poi vabbè, Giacomazzi e Lecce, Motta Inter e Rossi Genova, però sono cinque coppie. È anche vero che Giobatta scrive alla Genova e dice: ma perché il calcio, quando bisognerebbe celebrare il mitico Muhammad Ali, vero grande eroe della storia dello sport? A domanda risponde: sentiamo un ex grande campione italiano, certamente non della dimensione di Ali, come Patrizio Oliva, oro a Mosca nei superleggeri nell'80, che cosa ha detto per celebrare questo 70° compleanno, triste peraltro per le condizioni in cui da tantissimo tempo Ali è ridotto, dicevo, in occasione dei 70 anni del fenomeno. Il mio parere, io lo ritengo il migliore di tutti, di tutti i tempi. Io credo che non ci sia stato e ci sia ancora un pugile che non abbia cercato di imitare o di scimmiottare. Ali era un mago sul ring, quella magia muscolare, quel suo danzare era qualcosa di straordinario. E io devo dire, sono stato uno di quelli che ha cercato anche di rubare qualcosa dal suo repertorio tecnico. Poi dopo mi sono ispirato anche a un altro grande campione che è stato Sugar Leonard. Ma Ali rimane quello che ha inventato la bella box. Questa mi sembra una bella definizione. Rimane quello che ha inventato la bella box, anche più che bella, forse, no? Se si ripensa a qualche. Se pensa a certi indimenticabili frammenti di questo enorme campione. Che io credo, insomma, tutti gli esperti concordano che sia stato il più grande di tutti i tempi. Maurizio, chiamato da Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io chiamo da Chieti e sono tifoso del Napoli, quindi faccio questa piccola premessa, diciamo così, per far ben comprendere il mio stato d'animo. Indubbiamente ieri il Bologna è riuscito, diciamo, a bloccare il Napoli per quanto riguarda la qualità del gioco. Il Pioli già l'aveva fatto l'anno scorso con il Chievo benissimo. Chiamo per due aspetti, diciamo, che avete analizzato durante la trasmissione all'inizio. Uno, il calcio di rigore. Io ritengo che un giocatore che blocchi una palla all'interno del calcio dell'area di rigore con la mano sia sempre da sanzionare con il rigore, per un motivo molto molto semplice: non si riesce oggi a determinare se un pallone è entrato o meno all'interno di un'area, e figurarsi se si riesce a determinare in un lasso di tempo brevissimo se quel giocatore abbia avuto intenzionalità o meno di bloccare la palla, che di fatto è un'azione pericolosissima in area, e quindi automaticamente, secondo me, andrebbe comunque sanzionata con il calcio di rigore. Veda questa, questa non era un'azione pericolosissima, Maurizio, era proprio una cosa rimpallata che andava verso l'esterno, per cui la sensazione di pericolo certamente non poteva averla questo difensore del Bologna, quindi per questo presupposto non c'era. Però dica. L'esempio di Aronica a Milano, un famoso calcio di rigore, o lo stesso Schweinsteiger durante un Napoli-Bayern Monaco, il quale tutte e due entrambe alzano la mano. Uno fu un rigore a Milano, quello contro il Bayern non fu. Questo è un aspetto che ci tenevo a dire la mia. La seconda, il Mazzarri-Piagnone. Io credo che si sia alimentata praticamente questa storia del Mazzarri-Piagnone. Perché praticamente fa comodo da parte di chi ha sempre ricevuto favori, e la storia ci insegna che ce ne sono e sono quasi sempre le solite. Cioè il Bologna, per esempio. Mazzarri un po' piagnone. Il Bologna nella fattispecie? No. Nella fattispecie mi riferisco alle tre sorelle, sì. Inter, Juve e Milan. Lei seguo sempre la sua trasmissione e quando lei disse: io sono tifoso al 33% di Inter, Milan e Juve, da lì, insomma, si intende che il suo giudizio sulle altre squadre, diciamo, non sempre è così. Maurizio, vedo che lei è attento. Io credo che questa frase la ripeto almeno una volta l'anno, no? Statisticamente, più o meno, forse di più. E ho sempre detto che sono antitifoso di Juventus, Milan e Inter al 33%. Quindi vedo che il messaggio è passato e vedo che lei l'ha colto esattamente. Io però quello che volevo dire, io però ricominciamo con Mazzarri. Ascolti, Mazzarri, io lo ricordo che è un signor allenatore, con la maiuscola. Io ricordo Mazzarri piangere in continuazione, ininterrottamente, l'anno, e ne aveva anche qualche buona ragione, l'anno in cui compì un miracolo autentico alla Regina, quando salvò la Regina, che era partita con una penalizzazione pazzesca, e la Regina si salvò giocando bene a pallone e si salvò anche in anticipo, nonostante questo fardello. A sentire Mazzarri alla fine di ogni partita, in ogni partita gli davano in testa, no? Allora lei pensi se la Regina quell'anno si sarebbe mai potuta salvare se, oltre alla penalizzazione, ci fosse stata la congiura di cui contro la Regina, di cui Mazzarri parlava alla fine di ogni partita. Mazzarri è così, prendere o lasciare. A lei è simpatico, secondo lei ha tutte le giustificazioni del mondo, secondo me, e temo anche secondo una discreta maggioranza di ascoltatori, è assolutamente insopportabile in questa piagnoneria a prescindere. Le aggiungo, così giusto per completare il quadro, che quell'anno con la Regina faceva catenaccio Mazzarri, come ha fatto ieri sera a Bologna e come chiunque è autorizzato a fare catenaccio o comunque a giocare in maniera più difensiva, perché non è ancora reato andare su un campo di una squadra più forte, come è per esempio il Napoli ieri sera nei confronti di Bologna, e provare a difendersi innanzitutto. Non è ancora reato, pensi che l'ha fatto persino l'Inter l'altra sera con il Milan per tutta la partita, e non mi pare che, no? Non mi pare che da un lato gli abbia detto male e dall'altra parte che ci fosse qualcosa che non andava da un punto di vista tattico. Massimiliano Vicenza, buongiorno. Buongiorno, io sono un tifoso del Napoli, io sono un po' parlo da tifoso, e dopo aver visto gli highlights della partita, perché non ho potuto vederla perché ero in viaggio, io confermo che il Napoli meritava di perdere ieri, però bisogna anche riconoscere che ci sono stati altri due falli su Pandev e su, adesso non ricordo l'altro giocatore, che potevano essere sanzionati col calcio di rigore. Massimiliano, non ci siamo, io non so che highlights abbia visto lei, sinceramente non le saprei dire. Io ho visto ancora delle palle gol per il Bologna all'ultimo minuto, forse già anche in fase di recupero, a proposito di catenaccio e di rinuncia totale a vedere. Ma d'altra parte qui ormai ciascuno giustamente, liberamente, vede quello che gli pare. Senta questo comunicato della Juve di stamattina. Perché? Perché via YouTube, dato che la scorsa settimana aveva avuto un discreto successo, un video piazzato su YouTube a proposito del portiere del Napoli e del retrostante Lucarelli e di un altro retrostante incappucciato di cui non si capisce bene l'identità, ma insomma potrebbe anche essere un altro giocatore, si era vista questo strano, non dico inquietante, ma certamente strano comportamento di De Santis. Allora qualcuno evidentemente, il primo che si sveglia la mattina ormai, ha pensato di cominciare a dragare, no, strani comportamenti di portieri. E cosa è successo? È andato a prendere l'attimo successivo a quello in cui in Juventus Cesena, tra l'altro lo stesso giorno di Napoli Lecce, cioè i primi di dicembre, viene espulso ingiustamente tra l'altro il portiere Antonioli. La Juventus vince già 1-0, c'è rigore ed espulsione, rigore per la Juve ed espulsione di Antonioli, e entra in fretta e furia Rodriguez, che tra l'altro è il terzo portiere del Cesena, che è un uruguaiano. Allora questo Rodriguez si piazza sulla linea di porta e per parare il rigore, appena entrato, no? E ha come un gesto che può essere un gesto strano del collo, che può essere un modo di farsi scrocchiare il collo, perché era evidentemente in panchina, povero, e a tutto pensava meglio di entrare, soprattutto a parare un rigore. Oppure in un'altra interpretazione avrebbe anche potuto fare un cenno in una direzione per confondere Vidal, che era il tiratore, che era il battitore designato. Da tutto questo è uscito questo video, qualcuno ha piazzato su YouTube questo video sostenendo che questa immagine rivelerebbe un cenno di intesa tra questo giocatore del Cesena incaricato di parare e il giocatore della Juventus che il rigore lo doveva battere. Ora è evidente che qui non siamo più alla caccia alle streghe, siamo molto molto oltre. Rodriguez tra l'altro non era nemmeno un portiere, ma era un difensore, perché il Cesena aveva già esaurito le sostituzioni e secondo questa cosa, morale, la Juve ha preso malissimo questa cosa, giustamente. e ha diffuso il seguente comunicato: la diffusione in queste ore delle immagini relative al calcio di rigore battuto e realizzato da Vidal in Juventus Cesena, che secondo alcuni rivelerebbero un cenno d'intesa tra il calciatore del Cesena incaricato di parare il giocatore bianconero, costituiscono un tentativo subdolo e maldestro di ledere l'immagine della società e del calciatore. Juventus Football Club agirà in ogni sede a tutela dell'immagine di Arturo Vidal e della società. Bouyard ha chiamato da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io gli volevo dire che 3 mesi fa lei, mi ricordo, che disse per il discorso quando Inter cambia allenatore, dice: se Ranieri ci mette lì ben 4 centrocampisti e gli dice a Lucio di non uscire più dalla difesa appena prende la palla alla presa, Inter la sua bella figura la farà, magari non vince lo scudetto, però insomma per la Champions c'è. E poi la seconda è del momento, insomma, in fine della partita ho visto il Milan che era troppo giù fisicamente. C'è la preparazione sbagliata che hanno fatto, oppure è l'Inter che insomma è ricaricato un po' dopo che ha fatto il gol, insomma, dopo che ha... Ma insomma, Bouyard, intanto io la ringrazio per la sua memoria perfetta, a differenza di quella del suo predecessore al telefono, no? Che invece è proprio la sempre capita al contrario, è abbastanza singolare perché è una cosa che ripeto spesso. Io credo che l'Inter in questo momento sia in una condizione molto brillante, perché mentre, non so, Juventus e Milan, per fare un esempio, hanno passato queste vacanze a Dubai in un misto di lavoro, vacanza e probabilmente anche rilancio di carichi, no, in prospettiva, l'Inter invece ha deciso di fare 10 giorni di vacanza intera e poi di prepararsi, di riprendere la preparazione normalmente ad Appiano. Sul breve ha certamente pagato, perché si è visto domenica che la condizione psicofisica è migliore, nettamente migliore da quella dell'Inter. Sul breve quindi ha pagato, adesso sul medio e magari sul lungo si vedrà, staremo a vedere tutti insieme. Messaggi tanti: Mazzari sarà anche il signor allenatore, come ha detto lei, ma non è certo un allenatore signore, lo scrive Milko da Toria, provincia di Imperia. Da tifoso romanista, scrive Enrico Cristiano, posso confessare che alle milanesi non invidio i soldi, gli scudetti o le coppe, invidio che possano godersi allo stadio un derby da avversari, anche acerrimi, con sfottò passione e le pressioni che ne derivano, ma senza rischiare mai una coltellata, come la capisco, caro Enrico. Questa è la differenza vera tra del derby di Milano rispetto, direi, a tutti gli altri derby italiani, ma certamente in particolare rispetto a quello di Roma e direi anche di Genova, soprattutto negli ultimi anni. C'è un problemino di voce, di guai di stagione per Nicola Filippone. Allora parte la sigletta e poi vi accontentate di me. Sembra ieri. A San Siro il Perugia accorcia le distanze sul Milan portandosi sul 2-1 nel recupero con un rigore trasformato da Nakata. L'attaccante Bucchi si affretta a recuperare il pallone ma viene steso da una manata di Sebastiano Rossi che viene espulso. È il 17 gennaio 1999 ed è l'episodio che cambia la vita del 21enne Cristian Abbiati, che così debutta tra i pali. È arrivato come terzo portiere con la prospettiva di guardare Lehmann e Rossi e invece diventa protagonista decisivo di quella stagione, contribuendo pesantemente allo scudetto di quella formazione allenata da Alberto Zaccheroni. Grazie a Nicola Filippone che così ha celebrato questo 17 gennaio 1999. Allora, oggi evidentemente qualche annetto è passato. Andiamo a Napoli da Umberto, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Volevo dire qualcosina su Napoli-Bologna. In effetti... Pronto, mi sente? Sì, sì, forte e chiaro. Sì, sì, scusi, non sentivo in silenzio. In effetti, essere obiettivi insomma, su una partita di calcio è impossibile, perché credo sia una contraddizione in termini. Bisogna forse ragionare... Perché? Perché? Ma chi gliel'ha detto? Ma forse, come dire, ragionare da tifoso, quindi si ragiona come un soggetto di parte forse. Ma perché uno deve rinunciare al proprio cervello? Ma comunque, vabbè, dica. Ma in effetti è vero, perché io a questo punto ragiono in maniera obiettiva, nel senso che benché sia napoletano non tifo Napoli. E non la condivido sulla riflessione che ho ascoltato da alcuni telespettatori riguardo al fatto che Bologna ha giocato sicuramente, ma molto, molto, molto meglio del Napoli. Mazzarri è un allenatore bravo ma sufficiente, nulla di cui entusiasmarsi. Il Napoli è una squadra molto fortunata, non subisce infortuni importanti da 2 anni e mezzo, occupa una posizione in classifica che è quella che merita, forse qualche punticino in meno, bella figura in Coppa, ma niente di cui eccitarsi, insomma, più va di buon, tanto. Va buon, Umberto, grazie al suo intervento. Davide Cefis da Collegno, provincia di Torino, scrive: mi sembra che il livello del campionato sia abbassato in maniera evidente. Il derby l'ha vinto un Inter spelacchiata, il Cagliari ha fermato la Juve, il Genoa ha battuto l'Udinese, gli attacchi divorano gol, il bel gioco latita. A inizio campionato non avrei pronosticato un tale livellamento nella parte alta della classifica. Sì, non è un campionato da dare i numeri, questo da un punto di vista qualitativo, questo mi pare si possa dire. E come sempre però c'è il rovescio della medaglia, e cioè c'è il fatto che c'è il livellamento porta un po' più di equilibrio e quindi un pochino più di interesse condiviso, esteso, no? rispetto ad altri che invece sono dominati da squadre guida. Oggi è la beneficiata napoletana. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Dica. Complimenti. Senta, io al di là del discorso, diciamo, della partita di ieri, io guardo un po' a largo raggio, diciamo, quello che è il campionato, gli anni passati, sia dell'era Mazzarri ma proprio del Napoli. Secondo, io sono un grande tifoso del Napoli, però sono molto obiettivo e bisogna dire una cosa: il Napoli, al di là del Bologna che faccia il catenaccio o meno, ha 2, 3, oggi forse 4 giocatori bravi in attacco, un buon centrocampo, nulla di che, ma ha una pessima difesa. Il migliore del Napoli è Cannavaro e non è una cima. Quindi andare pure a recriminare su un qualcosa che potrebbe il rigore in più o in meno, il problema del Napoli è la difesa. Siamo scadenti in difesa, perché non voglio dire nulla, io sono un tifoso del Napoli, però bisogna essere obiettivi. Prendersela sempre a piagnucolare con Tizio, Caio, Sempronio è impossibile. Il Napoli deve fare mea culpa, anche la società deve comprare 1/2 difensori di categoria superiore, altrimenti andare a fare anche in Champions una figura magra con Aronica e Campagnaro è molto, ma molto, proprio è riduttivo parlare di Champions con quei due giocatori lì. Va buon osservatore, è chiaro, il messaggio è arrivato, non c'è dubbio, lei ha parlato chiaro. Vediamo un po' quest'altro episodio invece che riguarda il rugby, questo sì che è parlare chiaro. Allora, questo non è calcio, sentite un po' questa frase, ci hanno già fatto anche una maglietta. È una frase che un arbitro internazionale, Owens, ha rivolto al mediano di mischia del Benetton Treviso durante l'incontro di Celtic League a Limerick tra gli irlandesi del Munster e il Benetton, ed è passata immediatamente alla storia, perché più che una battuta è diventato uno slogan. Cioè, questo giocatore, il giocatore del Benetton stava protestando con l'arbitro, si dilungava in questa protesta, l'arbitro ha chiamato a sé il capitano e un altro giocatore per la classica ramanzina, ma dato che evidentemente non ne poteva più, no, di queste proteste verbali così reiterate, si è sentito molto chiaro nel microfono degli effetti ambientali la seguente frase: pensa a giocare e non a parlare, io sono l'arbitro e questo non è calcio. Ho l'impressione che sia una di quelle frasi che sono destinate a restare. Questo non è calcio, se pensiamo appunto agli atteggiamenti che vediamo ogni domenica sui campi di calcio a proposito di decisioni arbitrali, e ogni lunedì sera per esempio, la frase resterà. Domenico Milano, buongiorno. Salve dottor Garanzini. Dica. Io faccio i complimenti alla trasmissione e 2 domande da porle. Innanzitutto, da tifosissimo del Napoli, confermo l'antipatia di Sarri. Se essere antipatico, magari quando Mourinho magari potrebbe anche vincere qualcosa come lui, ben venga. Lo speriamo da tifosi. La seconda, secondo la sua esperienza, quanti anni potremmo... sabato prossimo c'è un grande derby, no? Il spagnolo, il Real Barcellona. Noi italiani quanto tempo dovremmo aspettare per vedere uno spettacolo del genere? Domenico, non so se faremo in tempo. Se parliamo di qualità, non so se faremo in tempo. Grazie a lei, grazie a Franco Piantanida in redazione. Mi pare che il tempo stia scadendo. Sì, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, che mi segnala opportunamente l'orologio. Appuntamento a domani. A tempo di sport.